quell'antico tronco d'albero che si vede ancora oggi sul Gianicolo a Roma, no? Quello secco, morto, corroso e ormai quasi informe, tenuto su da un muricciolo dentro al quale è stato murato a ciò che non cada o non possa farsene legna da ardere, si chiama la Quercia del Tasso perché, avverte una lapide, Torquato Tasso andava a sedervisi sotto quando essa era frondosa. Anche a quei tempi la chiamavano così. Fin qui niente di nuovo, lo sanno tutti e lo dicono le guide. Meno noto però è che, poco lungi da essa, c'era, ai tempi del grande e infelice poeta, un'altra quercia, fra le cui radici abitava uno di quegli animaletti del genere dei plantigradi detti tassi. Un caso. Però a cagione di esso si parlava della quercia del tasso con la T maiuscola e della quercia del tasso con la T minuscola. In verità c'era anche un tasso nella quercia del tasso e questo animaletto, per distinguerlo dall'altro, lo chiamavano il tasso della quercia del tasso. Alcuni credevano che appartenesse al poeta e perciò lo chiamavano il tasso del tasso. E l'albero era detto la quercia del tasso da alcuni e la quercia del tasso da altri. Siccome c'era un altro tasso, Bernardo, padre di Torquato, poeta anch'egli, il quale andava a mettersi sotto un olmo, il popolino diceva «Ma il tasso dell'olmo o il tasso della quercia?» Così poi, quando si sentiva dire «il tasso della quercia», qualcuno domandava «Di quale quercia?» «Della quercia del tasso». E dell'animaletto di cui sopra, che era stato donato al poeta in omaggio al suo nome, si disse «il tasso del tasso della quercia del tasso». Poi c'era la Quercia del Tasso, una poverina con un occhio storto che s'era dedicata al poeta e perciò era detta la Quercia del Tasso della Quercia, per distinguerla da un'altra Quercia che s'era dedicata al Tasso dell'Olmo, perché c'era un forte antagonismo fra i due. Ella andava a sedersi sotto una quercia poco distante da quella del suo principale e perciò detta la quercia della quercia del tasso, mentre quella del tasso era detta la quercia del tasso della quercia. Qualche volta si vide anche la quercia del tasso sotto la quercia del tasso. Qualcuno più brevemente diceva la quercia della quercia o la quercia della quercia. Poi sapete, no, com'è la gente, si parlò anche del tasso della quercia e quando lui si metteva sotto l'albero di lei si alluse al tasso della quercia. Ora voi vorrete sapere se anche nella quercia della quercia vivesse uno di quegli animaletti detti tassi. Viveva, e lo chiamarono il tasso della quercia del tasso, mentre l'albero era detto la quercia del tasso della quercia del tasso, e lei la quercia del tasso della quercia del tasso. Successivamente Torquato cambiò albero, si trasferì, capriccio di poeta, sotto un tasso, albero delle Alpi, che per un certo periodo di tempo fu detto il tasso del tasso. Anche il piccolo quadrupede del genere degli orsi lo seguì fedelmente e durante il tempo in cui essi stettero sotto il nuovo albero, l'animaletto venne indicato come il tasso del tasso del tasso. Quanto a Bernardo, non potendo trasferirsi all'ombra d'un tasso perché non ce n'era una portata di mano, si spostò accanto a un tasso barbasso, nota pianta, detta pure verbasco, che fu chiamato da allora il tasso barbasso del tasso. E Bernardo fu chiamato il tasso del tasso barbasso per distinguerlo dal tasso del tasso. Quanto al piccolo tasso di Bernardo, questi lo volle con sé. Quindi da allora quell'animaletto fu indicato da alcuni come il tasso del tasso barbasso per distinguerlo dal tasso del tasso del tasso. E da altri come il tasso barbasso del tasso per distinguerlo dal tasso del tasso del tasso. Il comune di Roma voleva che i due poeti pagassero qualcosa per la sosta delle bestiole sotto gli alberi, ma fu molto difficile stabilire il tasso da pagare, cioè il tasso del tasso del tasso del tasso e il tasso del tasso del tasso barbasso del tasso.